Ci c'è qualcuno in ascolto? Cicù Canalini, ci c'è qualcuno in ascolto? Casi? CQ10, c'è qualcuno in ascolto qua? Ora CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno qua sul 10? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Tutti morsi siete? Qua su 10. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno in ascolto sul 10? CQ? CQ per un controllo? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno sul 10? C'è qualcuno sul 10? Ciao Natale! Ciao Fra, aspetta un attimo. Via, sono qua. Radio con questo. Sì, sì, tranquillo, alla grande. Mi si stava sfilando, mi si è lo spinotto, no, sopra, non c'ha quelle due bittine. Erano lente e mi stava strappando il filo. Allora me ne sono accorto e ho preso provvedimenti. No, no, tutto a posto, no, nessun danno. Hai risolto in tempo, dai. Una volta anch'io, io addirittura io una di quelle bitti l'avevo persa. E quindi stava andando avanti solo con una bite, ma già teneva lo stesso. Queste erano mollate proprio, me ne sono accorto perché mi si stava sfilando il filo. Capita a volte, non so perché, però capita. Poi sono piccolissime, ma la giusti, non l'ho più trovata una, l'ho persa. Vai, trovala poi una uguale a quella lì. Infatti, io qualcuna di quelle bitti dovrei averla. Mi sa, adesso ci ha messo anche il vulcano, ho vulcanizzato tutto, dai. Quindi non mi ricordo neanche cosa c'è sotto adesso. Ma va bene così. E che mi si sta screpolando anche il cavetto. Appena appena. È rimasto un po' di tempo fermo. E che microfono è quello? Allora, di tavola, come si chiama? Lo Shure. Ah, ce l'avevo anch'io quello. Ecco che bello. È un po' ingombrante, è un po' alto, però già esce bene, non è niente, senza frontoli, c'è una buona radio, senza essere super amplificata, tranquilla. Ce l'avevo, quello lì lo sai dove va bene, sul Saturnecco, una bomba esce, meglio del Turner più 3, uscita. No, la verità, esce bene, l'ho sempre usato. Prima addirittura c'era anche la camera eco attaccata, che la camera eco era anche amplificata, quindi usciva ancora più forte. Figurati. Ma vabbè, questa qui la radio com'è? Amplificata, si sente l'amplificazione, questo è quello di Tina. Ma benissimo, sento anche le voci della signora, quindi vuol dire che amplifica. No, ma come amplificazione, forte o no? Sì, sì, è forte, guarda che bella, è buona, è chiara, non è, non strappa nulla, perfetta. A che distanza stai parlando? Sarò mezzo braccio, da. E allora, va benissimo, va. Anch'io sono una quarantina di centimetri, da. Nell'altro c'ho il coso, come si chiama? Va. MB più 4. Io non mi ricordo, ma aspetta, va bene. A me piace come modulazione. Sono contento. Meno male sono riuscito, me ne sono accorto che oggi mi ha risposto uno di Catanzaro. Hai fatto un ex, hai fatto. E anche io l'altro giorno ho fatto Germania, Francia, roba così. Qualcuno anche dall'Italia ogni tanto. Poco fa c'era uno su 14, a un certo punto mi è arrivato anche 9 su 14 superiore, nei canali alti. È arrivato anche 9,20, 9,30 in banda laterale. Arrivavano bassi, arrivava anche quello di Catanzaro, mi arrivava basso. Questo era di Palermo, era palermitano, che parlava con uno di, della Sardegna, Luigi, sicuramente era la zona di Cagliari, io non lo sentivo quello della Sardegna, là. Ma lui arrivava fortissimo. Per noi viene, che siamo vicini, viene difficile sentirci. Quello di Catanzaro arrivava bassino, arrivava. Ma mi ha risposto, dice, mi sentiva bene. Hai visto? Anche quelle sono soddisfazioni. No, questo stavo facendo però con lineare attaccato, mi sembra che mi ha detto con 3 valvole, quindi sicuramente era qualcosa di grosso, qualche 200-300 watt ce li aveva. È quello, sì, io non, purtroppo non ne ho lineare e non attacco. Anche se lo dovessi avere non ne posso attaccare qua, sei disturbo, non si sa mai. Beato che non sto disturbando. Ah sì, ma tu la canaglia ce l'hai sopra il tetto. Per forza ti devono ascoltare. Ma non arrivi un segnalone allucinante, però arrivi, cazzo. Arrivo io con l'antenna attaccata alla casa, alla facciata. Infatti. Adesso pensavo avesse 4 watt, questo invece c'ha 2 watt e mezzo, sta uscendo. Io adesso sono l'apparato 5 watt e spaccate l'apparato. E dall'apparato lì. Però posso fare una cosa, va. Nota il segnale. Aumenta. Qui poco perché sei già, no, da 9,30 sei passato oltre l'attacco. Aspetta che ti attenuo, mettiti il segnale più basso. Adesso è 2 watt e mezzo, dai. Adesso ti ho portato a 9, attacca. E io cosa attacchi? Ecco qua, adesso è la potenza massima. Allora, da 9 arrivi al 3 nel 30, sì, quasi più 30 spaccato, con un po' di attenuazione però. Cazzo, no, però è sempre meglio a 2 watt e mezzo. Quindi quanto è che aumenta? Parecchio però che aumenta, caspita, da 9 a 9,30. Ed è un apparato così, mini, quelli veicolari, non è niente di professionale, nulla. È un bel apparato. Ma è Melegatti, no? No, il Melegatto è quello, quello che non c'ha canali né nulla. Ho capito, quindi questo è qualcosa di più. E beh, lo sai quanto ti dà quando è, lo stai tirando al massimo, quanto te ne dà? Non l'ho controllato, però già va. No, no, capita se va, in maniera. Io aumento quando non mi sentono, per esempio Franco, se io esco così con 2 watt e mezzo non mi sente, e allora devo aumentare per forza almeno a 5 watt. Franco Risorso? allora? Anche io, ma torto io. Franco, sai quanto arriva qua? Santiago 1 mi arriva a me, quando esce con quanti watt, mi sembra con 10 o 20, non mi ricordo con quanto moduli lui. La radio è buona. Infatti. Ma basta farsi sentire, almeno a sorso ci arriviamo. E io gli metto un foglio di casa sotto, così mi ascolta un po' meglio. Se ti pone il foglio di bambino vai fuori. Se no devo compensare, non l'altezza, la bassezza dell'antenna devo compensarla così. Ma se ti viene proprio male metterla sul tetto, no? Così, non è un granché. Dovrei mettere anche un palo perché... un'antenna di 7 metri, 8 metri, 8 metri vedete che sia. Ha bisogno di un palo buono, quindi devi bucare il tetto, mettere un palo. Per uscire fuori devi togliere tutte le tegole perché il tetto non ha un'uscita. È un sacco di travaglio. Ma se c'è così? Mi rompemi un po', perché sotto Torres non lo vedo. Sorso non lo vedo. Alghero non ne parliamo, neanche abbandonato arrivo. Come si dice, poi Muros, sì, se aggancio mi sente un segnale di 7, mi sembra agganciato, se no sarà 3. Anche Claudio, adesso Claudio ha cambiato parecchio, però riesco sempre a sentirlo. Poi la radio Claudio ce l'ha buona. Però rimaniamo occupati perché lui è dall'altra parte, io sono in basso da questa parte, è logico, siamo troppo differenti, c'è tutta Sassari in mezzo. Io lo stesso arrivo a basso a forza, ma la mia esce fuori 2 metri dal tetto, non di più. Se avessi avuto il palo più alto, allora magari avrei guadagnato. Purtroppo l'antenna è bassa e la devo lasciare lì. No, la mia, la punta arriva al cornicione. Infatti l'altra volta che c'era vento, quando me l'ha piegata, si è incastrata sotto il cornicione. Però con la mano stesso, è una canna da pesca, già la conosci, l'ho liberata subito. Figurati che vento che c'era, era un vento laterale, me la piegava e si è incastrata. Stavo pensando di mettere giù un palo sotto quelli per televisione che sono da 6 metri, per portarla su. È che non so se regge questa staffa per stendere. Ci saranno 5-6 centimetri di ferro dentro il muro, dentro l'intonaco. Secondo quanto lo carico ne va tutto. E gliele fai nuove le staffe. Vogliono a 1,20 m distanti una dall'altra. E mi guarda prima il barattolo di restituire l'antenna. Io qua mi sono attaccato con un ferro piatto, un pezzo di ferro piatto che sembra sia un 30x10. Mi sono attaccato con due, tipo morsetto, con due dadini, con due bulloni. E poi gli ho saldato in un'estremità di questo ferro piatto, gli ho saldato un pezzo di tubo là, dove ci infilo la canna da pesca poi dentro, tipo ombrellone. Ecco, io invece ho messo la staffa del satellite, della parabola, e ci ho infilato il palo dentro. Anche quello ho pensato, perché quella lì gli fai 4 buchi, gli metti 4 tasselli, dovrebbe tenere. Non lo so, anche quella l'avevo pensata. Metterla a fianco alla finestra lì, e poi magari provare a metterci un palo, e che vorrebbe, almeno un tirante su ci vorrebbe, vicino alla grondaia, o da quella che c'è sopra di me, per non muoverci, capito? Perché sennò guai. Non lo so, non le ho mai provate. Qua quindi di fronte a me ci muove. Sicuramente è andato via da quell'appartamento, l'ha lasciata attaccata alla staffa. Non so se sia. Non mi sembra molto robusta, però perché sono di tanti tipi, staffe buone, staffe meno, tipo quelle per le pompe di calore. Sono le Fisher che sono buone, poi ci sono quelle di contrabbando, come dico io, che attaccare dai. E tu controlla se com'è questa staffa lì, se senti un paradello. Non dico di metterla alta, però almeno qualcosa guadagni. Sarebbe bello mettere la bobina almeno sopra il tetto, farla uscire almeno un metro sopra il tetto, che poi la parte mia è la parte bassa del tetto, perché la parte centrale è alta, che c'ha due spioventi, no? Le finestre danno sulle parti basse del tetto, dove spiove, dove c'è la grondaia. Quindi quanto ci saranno? Ci saranno altri 2 metri poi a uscire dal tetto, per vedere, diciamo, la zona libera. Senta, io la mia è in una... Guarda, se tu vedi com'è messa la mia, ti spaventi. Ah, l'ho vista un po', l'ho vista. C'è un po'... la punta un po' piegata, mi sembra, no? Perché è successo un problema piazzandola. Mi ricordo che passando lì, dalle parti tue, l'avevo vista nel vicolo, là. Ehi, quella lì, a tu caso si è pigliata la punta. Ma non ha dubbio più caso, la caccia, lì sì, andare. Poi quando è così problematica la cosa, io a volte vedo quei palazzi che hanno la torretta su dell'ascensore, se potevo averla anch'io una cosa del genere, col terrazzo su che ci lavori in piedi tranquillamente, fa quello che vuoi, invece sono sempre incasinati. Infatti io non ci posso salire sul tetto, sai che rompo qualcosa, lui mi va a sbagliare la gambicidia, non saranno. E poi la prima cosa, mi sta entrando acqua, mi, come sono entrati su, sono saliti e hanno fatto danno. E così, meglio evitare, dai. Su, già mi sentono, qualcuno già mi sente. Stavo cercando qualcuno che mi dava un controllo a vedere se stavo uscendo di radio, perché come ho stretto quel mossetto lì, a chi mi rubisce li rubavo. Strappava tutto minimo, erano mollate proprio quelle due vicine. È strano, è raro che si mullino, però ripeto, è capitato anche a me qualche anno fa, cioè parecchi anni fa, e una l'avevo anche persa, l'ho detto, no, stai facendo bene, non ti preoccupare, va benissimo. Infatti c'erano sempre a quest'ora la gente, e meno male che c'è entrato tu. Quindi. Io mi ho fatto la doccia perché stavo facendo un po' di legna. Abbiamo fatto un paio di viaggi di carrello di legna, un po' di legna buona, di quercia, e poi un viaggio di quella di pino, là, di abete, quello cavolo è. C'era un po' di resina, c'era Buriani. Ci abbiamo fatto tre carrelli noi e un altro mio collega se ne ha fatto 4 viaggi di macchina. Ma non manco qualche cosa da bruciare là. No, neanche per me, non è per me, per i vecchi, per i nostri genitori, dai, che sono i miei suoceri. Io già vado a gas, grazie a Dio, ho finito di portare bombole e cose così, mi sono allacciato a Medea, adesso è diventata Gaxa. Tra un po' passerà anche il metano, tra qualche mese, non lo so, perché prima iniziano i paesi, dopo inizierà Sassari. Qua stavano cablando la fibra ottica, quella veloce. No, io mi sono già allacciato, mio figlio come ha fatto la domanda, l'iperfibra, c'ha cioè 1000 mega, infatti arriva fino a dentro casa, fino al modem, arriva la fibra ottica, è una scheggia, è una potenza. Lo credo, qua invece non hanno cablato nulla qui, in corso di continuità, dimmi. Infatti c'ho la fibra io, però quella fasulla. Come ero prima io, 100 mega, però quando arrivare a casa c'è la parte in rame e tutta quanta, lì perde un sacco, poi se si lontano dalla centralina perde lo stesso. Praticamente io ho usato la linea di Open Fiber, cioè l'infrastruttura, invece la compagnia telefonica e sono ritornato a Tiscali 1000 mega. Sono uscito, sì. Io ti devo lasciare momentaneamente, al limite ci sentiamo dopo perché devo fare cosa, capito? Ci sentiamo dopo al limite se coincide. Ehi capo, anche io mi riposo un po' la schiena che ho un po' di mal di schiena tra motosega e tronchi, adesso sto un po' accusando. hanno un po' di stanchezza, dai. Anche io mi riposo un po' le ossa. Un abbraccio, stai bene? Saluto in casa. Altrettanto, ciao, fra, ciao. Ciao, ciao, Natalia. Buonasera, io sono qua, buonasera a tutti, c'è qualcuno? No? Canale Reghe, canale Reghe, canale Reghe TV, attenzione, canale Reghe. Attenzione, attenzione, canale 10, cambio, attenzione, canale 10, cambio. Per farlo più L'ho messo a posto, capisci? KK. È molto bella sta lì. Sì, se no mi strappava il cavo. Sicuramente. Oh, nata lì. Oh, dimmi anche tu. KK, dai. Sto facendo la prova tutta la tribula, ma adesso spengo, dai. Sì, KK. Qua non è che cambi molto, mi. Già lo so, no. Lontananza la bestia. Lontananza, no, che non noto niente. Sempre quando scala arrivi. Io sono con due ratte e mezza adesso qua. K, però la radio è buona. Questo è il microfono di Tina. Opa, attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio dalla Sardegna, avanti! Vabbè, vediamo. Casa, questo c'ha anche l'ecco, l'apparecchio. Gaffa, vedi? Questo qua è il tuo microfono, Come? Questo è il microfono, sempre quello famoso. Via, quello gemello di quello lì ce l'ho attaccato al 3009, aspetta te lo faccio sentire. Sì, vai, aspetta che attacco l'altra radio, di noi no qui. Attento, Antonio, mi ascolti qua. Ehi, già ti ascolto, sta di Nivaria. Già ti ascolto. Questo è il gemello di quello lì. Va benissimo, va. Adesso sono con l'altro, sono. Va benissimo. Gara. Non ce n'è com'è. Funzionano tutti bene le radio. E queste sono nuove tutte e due. L'altra c'è anche l'eco volendo, capito? Solo che non lo metto perché a me non mi piace. C'ha il bip pure, che si può togliere quella là. Infatti manco bip c'ha quella, perché me l'ho tolto. Se voglio lo metto, ce l'ha come quello del... quello corpo a corpo, mi è bello il bip. Aspetta che la faccio sentire. E prova Natali. Guarda, questo qui c'è... guarda questo bip. È bellino, C'ha anche l'eco, c'ha... solo che non uso curricula, è visto, Come non lo sai regolare? Vuole regolato l'eco, mi c'ha due cose per regolarlo. Aspetta, così lo accendo. Guarda, c'è l'eco. Poco, Natali. Guarda, è così, uno, due, tre... Così è un po' di più. Va bene già. Quindi è regolato così. No, va bene, cavolo. Te l'ho detto che ce l'ha presa. Esci che mi ruga. Già va bene. Cappa, buonasera, Cla. Ciao, tutti e due, buonasera. Ciao, Claudio. Cappa, mi aggaggio che ha fatto stasera e domani sarà ancora più caldo. Alberto, mi accoppi adesso, sì. A voglia, sei quasi 9:20, sì. Andiamo bene, gatto. Ah, sì, chi sei tu? Ehi, vabbè, abbiamo messo quello piccolino, Cappa, sto dicendo, Cra, non è, cavolo, non è sempre il baracchino, Sì, questo è il baracchino, con quello lineare piccolino. Buona grande, va, cavolo. Tale più te con l'Elbex e il B300. È fantastico, va benissimo, va. Cappa, già va bene, l'importante è che ci sentiamo. Cappa, lo prendi in bocca brutto, Guilty. Sì, adesso arriva già paziente, voi non c'è problema. Cappa, il volante è quello. Cappa, forse Natalino, forse... forse, non lo so, sarà appena appena più basso di me, non lo so questo. Tu sei più alto, Natalino. Io sto scendendo un 2,5 mi sa. Ah, io sto scendendo con 10, poco fa no, adesso scendo con 10 watt, già abbassano, avanzano. Io lo stesso posso aumentare, guarda, adesso ho aumentato Acla. Sì, adesso sì, quanto è Antonio, siete uguali, stesso segnale. Figurati, adesso lo abbasso il prezzo. A voglia che va bene. Infatti, la Russi, 2,5 va bene. Noi più o meno ci guardiamo, essendo quasi nella stessa zona, più o meno abbiamo le stesse prestazioni. Sì, infatti, cosa sai, figli? Basta che ci sentiamo. Scappa, lo so. Caso venne in campagna. Sta bene qua, è sempre ventilato, alto, sta benissimo. Meno male. In oggi è sventilato, È molto fresca questa zona, sta bene. Già, però io in oggi per calcio, c'è un sottotetto, vabbè. Andavo in diga, così che mi pongo i mutanti la notte. Ci sta bene lo stesso pure. Ciao vabbè, dai, ci aggiorniamo dopo se ci siete. Ciao. Ciao, ci sentiamo. Ciao qua. Sì, anche io mi canso adesso. Ci sentiamo alle prossime anche. Mi gocco un poco, perché tu dammi la china. Me ne devo fuggire da qui, sempre seduto si prende la schiena. Non so, Natale. Mi ha detto tu già vai più fresco, ma pure qua già non è che ci stava, tutta la questione dell'abitudine. Me. Vabbè, ci sentiamo, saluti in casa, anche. Ci sentiamo alle prossime, mi guardo un po' di TV. Via, ci sentiamo, ciao. Propaganda. È bella forte. Propaganda permettendo. Cappa, è venuta a posto. Non ho capito. A fare delle visite oggi, Antonio. Dall'urologo. Se mi ha detto che è tutto a posto. Mi hanno detto sono a posto. E niente, adesso devo proseguire con il dentista. E via. Piano piano, tu. E ti dico se si fa in piano piano, vabbè, facciamo il piano piano. Ma c'è bella drupeglia, ne hanno bella poco di dirà. Loro hanno studiato, ci mancano, hanno speso dei soldi per studiare. Cappa, lei non mi ci ha travaglio, uga. Ormai che guadagna che cosa. Poi fanno gli aggiornamenti e gli aggiornamenti si pagano. Già nei giornali di là, non ti preoccupare. Lo so, altro. Sicuro non è più di me. Scappa. Ha detto questo che mangia la cazzoppa, così ha detto. A quanto pota va. Ho detto speriamo che mi esca qualche seratuccia, ho parlato con una persona, vediamo un po' se aprono qualche circo o qualche cosa. Un po' cosa ne esce. Piano piano, c'è tanto, se non ti rispondo subito con questo pigiamano, aspetta. Aspetta che chiamo un mio amico. Alla tre. Actu. Carretta, rimagne. Scheiße. Io mangio kartoffeln. Io mangio kartoffa. Siamo a posto, me. E come ti dici, fiacco di guru in cosa? In tedesco. Duc. la verità non lo so. Bisogna chiedere il vocabolario se me lo traduce. Ah beh, quello sì, bisogna chiedere qualche vocabolario, senz'altro. Tutto a posto, ho contatto adesso. Allora, te scolo che dici, ho fansir, dici, fianco di guru. Attention my friend, il German scucci station of Lima, Italy. Hola my friend, hola my friend, scucci station of Lima, Italy. Aspetta un attimo, Antone, che sto chiamando questa persona, due secondi. E la fai con comodo, non c'è problema. Vabbè Luca. E beh, Popo. Dimmi tutto, caro, dimmi tutto. Andiamo bene, avvero. Uia. Siamo messi male, siamo messi, ragazzi. Beh, giovedì sono alle 2:15. Verso all'1 e mezza, appuntamento. Al Conti? No, no, lì via Carlo Felice, la dentista. Ah, vabbè. Allora, chiamami, quando è finito. Così ci vediamo una cosa giovedì. Fatto giovedì 27, quindi. Io non sono quelli da fino. Ma noi chiamami, non c'è problema, io sono a casa, tanto. Perché devo avere il suo posto, la verità. È un diatto, ovvia. Per carità. Se c'è cavolo, fammi un corso. Deve... Adesso devo chiedere a fratello di cosa, di Giuseppe Lucino. Giuseppe Lucino con la bianco, avevo quello vivo. Quando stavo dentro casa a girarmi le balle, erano le balle piene, stavo in cazzo a gonfiarmi e a me faccio qualcosa. Bell'estate. Sì, ma oggi con la problematica avanti, non è facile, no? Se vuoi buttare niente di mettere in giro, per carità. Vabbè, ma non costa niente. Fammi fare il corso, come fare, cioè, come fare di tutto, capito, caffè, birra, fare, cioè, mettere nei bicchieri, eccetera, eccetera, poi il resto se va bene, culo, hai capito? Se puoi, dopo la barra, pigliare sulla pavura, niente se ne frega. Ma questi ragazzi io ci sono messi vacanti, bomba. Eccomi, sono ritornato. E guarda che stravaganti. Ehi, questi ragazzini di oggi hanno giusto, stravaganti. Guarda come dei capiotti, verrai. Il massaro macchine. E che non hai bisogno di capiotti, sono una massa di gaggi i genitori. Non imparano nulla. Ehi, ma se cosa dico? Simone in 20, in 30, dopo giù vieni a capiotti. Ah, cosa che... E voi di 30, roba massa di bucarotti, cioè ma non hai mai l'educazione, non hanno mai bigliata, ma cosa? Quando sono minore. Cacca truncata da dosso, ne ha dato, non avrebbe fatto male. Non sapevo la mazza. A baseball sei tranquillo che quando mi scegli dentro al balcone ti metto a fiati, ma se lo prendi il primo tutti gli altri si vanno a... se ne fuggo non ti preoccupare. Ah, sto tenendo l'aria. Buonasera Antonio, ma Antonio mi siete a me. Claudio, devo dire. Ehi, buonasera, sono tutta sorta, sto a mangiare. Ciao, ciao. Ehi, dopo, ciao, ciao, allora. Non c'è la pure, tranquillo, non c'è problema. Ciao, ciao, ciao. Ciao, vedi. Ora, ora. Allora, manigliato il yo-yo. Un po' meglio va, dove? A voglia, c'è anche per il verla, c'è avanti per il verla. E beh, per il re. E beh, cash, burro. Andiamo, andiamo, cash. Andiamo, andiamo. Dai, lo sentiamo in un'altra occasione, già vi ascolto spesso, ciao. D'accordo, d'accordo, non c'è problema. Ma mi ascolti bene, Antonio, sì. Sì, sto pompando, si sente. 925, sì. Pompando, sto pompando, perché è salto la modulazione, no? Non è salto la ma si sente che... è bella... è stato assolutamente vero, però si sente che stai pompando, capito? Stai pompando, sto andando con 50 watt, non di più, 40 watt e top. Va bene, va bene. Luca, tu mi senti bene, sì? Sì, no, fa un passaggio. Guarda, va bene, 1, 2, 3, 4, 5, la modulazione com'è buona? 9, 10, a picchi di 15, sì, sì. Infatti c'è buona modulazione, sto usando l'Elbex con Salenta KK. Sei compresso in pratica, amico. Compresso sì, tu, che non si compresso accidenti. Che senti chi parla, amica? Mamma mia, sta parlando di custode della chiesa, sta parlando. Ah, non esagerato, perché lui si capisce bene. Tu sei un pochettino troppo forte. Hai dato troppo ingresso. Io o lui? Tu hai dato troppo ingresso, lui è giusto, Devi abbassare l'ingresso, perché sei tu saturo, lui a me non è saturo. Guarda, io ho abbassato ancora la potenza, adesso saturo, non sono saturo, perché mi sto ascoltando. È perfetta, tu stai pompando troppo, Antonio, stai dando troppo ingresso. Sei 9 più 30 qua, la modulazione è un po' satura. Vabbè, quello è... non sono da vinti, ma tu l'ho fatto così. Ma ho portato io questo, ma chi non lo sa. Questo è quello di... cosa, il codice 4000 è questo. Se metto il tubo da nuovo mi senti meglio, questo è il 12 come si vede. E questo, l'altro c'ha 10 watt, l'altro ne ha 5 qui da un certo punto. Vabbè, va, non c'è problema. Va bene così. No, ti ascolto, non c'è problema, Antonio, ti ascolto benissimo, fortissimo. Però la modulazione è leggermente compressa, capito? Io adesso ho tolto lo scatto, dovrebbe essere ancora migliore. Va bene, ci sentiamo ragazzi, vai Lucarie, ciao a tutti. Ciao Cla, ciao, alla prossima. Un attimino, mi assento, arrivo subito. KK, perché pure io ne attacco un bel po'. Non esco saturo, capito? Vabbè che l'ingresso glielo do giusto. Ho capito. Ma sono cercato di prendermi gli effettivi 250, l'ho visto ieri, 200 euro. Nuovo, cazzo, l'ho visto. Non c'è manco un graffio, quello già è bello quell'apparato, Con quello per parlarmi anche a fianco alle orecchie io non ti sento. Capito, con la tela della macchina. Ti puoi mettere a 200 metri la casa mia, ma con te sento di splatter. Sento fatto l'uscita a valvole. Gira giù la mano a prendo. Ma cos'è un apparecchio vecchio? Ehi, ha l'apparato valvolare, decametrico. C'è anche la 27-200 euro, le vogliono. Come... è nuovo, sai che c'è un graffio. Sto cercando di prendermelo, però ci vediamo un pochettino. Il telefono, se ci mettiamo d'accordo, me la prendo e me lo porto a casa, quella apparato lì. Quella bella, la valvole, è di uso quello, l'ho avuto e non ce l'è, capito? Capa. È che non sei pensato di vecchio, se no te l'hanno divertito. Io ho usato Claudio, l'effetto 250, già sa cosa vuol dire. E non senti manco vicino di casa a 5 metri di distanza. Manco lo senti. Devo dirlo a proprio, capito? Devi stare cazzo girando da una parte all'altra per poter sentire gli altri, perché è banda stretta. Però il 100 watt ti dà. È come se ti dà. A parte se mi metti nella sapeva roba discorsa, ti prendi le valvole. Non so conosci il documento una volta, in occhi, il costo Vittorio Emanuele, ti avevi saputo mantenere lo smitter, davvero me? Perciò non ci sono più, non lo so, dipende, la pace prodotto, quello che è, che piglio 5-6 appartamenti e mi piace anche la di lì, mi interessano, da qui me ne vado e me ne vado direttamente di lì. Serve sta bene lì al centro storico, perché c'è tutto aperto. Sì, ti trovi più bene qua. Male la casa è più bella, però è dove vivi adesso. Sì, ma mi mancano, capito, con le ragazze, venivano a casa a trovarmi ogni giorno. Come ti posso dire, devo fare la scuola 24 anch'io, capito? Quindi una volta c'era divertimento, venivano a trovarti, adesso non c'è manco un cane, sono dei geniali e qualche guasto c'è, chi abita lì a centro storico. Lo so già, sicuro che qua da me ne avresti preso, come tu ne avresti dato a me io te ne avrei dato a te, colpi ne avresti preso da me. Sì, vabbè, c'è un moglie di cosa. Perché cominciamo la verità? Vedi, facciamo tutto di con qui, ne vogliamo. Mi avrei pigliato, avrei anche dato, quello non è poco per sicuro, ma... Però è una bella zona, La verità è aperta per la zona di Anghero, quello che è veramente aperto. Adesso abito qui e è tutto fatto, la verità. È stato, vedi, più su. Non dico molto, ma meno... dove c'è il campo di calcetto che c'è qua su, avevi fatto 13, avevi fatto. Lo so. Lo so, ma io comunque no, lì va bene. Qua no, non sono tanto aperto io per Alghero, no. E ti sembra già sei aperto, è che non c'è nessuno Alghero più, capito? Se no si è aperto una cosa diversa, ma comunque te lo sto dicendo io. Lì sei aperto, non preoccuparti. Lo so, un tempo c'era Mondino, c'era, te lo ricordi? Sì, ovvio. Chissà che fine ha fatto tutta quella gente. Sì, non lo so, c'è chi si è sposato, chi è morto, chi è quello, c'è quello che è l'altro, quindi a un certo punto ha abbandonato. Attenzione, ma l'ingresso non lo puoi abbassare? La verità no. Ah, cavolo, sto saturando. E adesso sto staccando. Ora va bene. Già va bene. Non c'è bisogno di spingere, aspetta che abbasso qui appena. Così è sufficiente. Sto spingendo, sai perché cosa? Perché adesso ormai Claudio si è andato da qua, quindi... Adesso cerco un appartamento lì dove abitava lui, nel grattacielo prima di lui, così divento io numero uno, hai capito? Così lo faccio schiattare come faceva lui a me, mi sovrammodulava ogni tanto, cazzo, devo prendermi la rivincita adesso, e quindi adesso sto cercando un appartamento lì al primo grattacielo, quello all'angolo con via Milano, capito? Via Milano, via Valdabbasso. Se si trova l'appartamento lì, piazza davanti, va lì, io sono a posto. Si può schiattare, mi si attacca quel, anche lì da campagna. Sto chiamando, poi aspetta che ci urbia, due minuti, rispondo tempio. Ne ho visto una Orbia, ne ho visto, c'era l'antenna. Quando lo vedete tu, Orbia, tempo lo sentivo benissimo, la verità. E non era neanche tanto alto, la verità. Era solamente aperto per perché la palazzina era di lusso. Vabbè, adesso vediamo un po'. Se è stato male di meglio. Me ne vado, c'è una villetta, sto parlando io, ma adesso per i fatti miei non devo stare cazzo in mezzo al condominio a girarmi le balle, mamma mia, cazzo. Se ce la faccio a trovare lassù dove c'era Alberghiero, ho fatto 13. Hai vuole i burro di cattucce, Antone. Vabbè, ci vuole le cattucce, quello che vuoi, ma a un certo punto però piano me la pagherò. Qual è il problema? Non è che ho, non è molti soldi, però qualcosa ce l'ho per poter darmi in anticipo, capito? Poi adesso me lo pago piano piano, finché vivo con la pensione. Ah beh, ma fa una cosa del genere con i gattucci. Vabbè, dai, piano piano. Ma l'hai cambiato il cavo? No, non ho ancora cambiato niente. E sta facendo un vento, cosa sa, cosa fa? Ha toccato a scendere il cazzo giù, non sta andando. Adesso aspetta un pochettino che cade il vento, sai cosa ho fatto, cambio il cavo e così sistemo questo lineare e me lo tolgo da mezzo ai piedi. Cosa è barridotta in Sant'Enzo? Ehi vabbè, meglio che sia così, a me non si muove, non ti preoccupare. L'ho vista un pochettino piegata. Il vento me l'ha piegata l'ultimo che è arrivato, la verità. Ma la mano mi ha sceso due in terra. Non male. Cappa. Già andava bene. Quelle case su in alto. Cavolo, con quel palazzone alto che c'è lì in via con la Malta. Lì chi è già forte me. Lo so, ma lì c'era un CB. Se era andato perché aveva cambiato casa, aveva cambiato. Claudio, se non ricordo, lo faceva schiattare, non si era modulato come niente, Claudio. Proprio l'ultimo all'angolo con via Milano e via Vadabasso. Sì, a Claudio non lo va di schiattare, non si preoccupa. Perché quando non c'è la potenza naturale c'è la potenza artificiale. E se ti attacca un chilo fatto in chimio, non comprendi più nulla, me. Non ti preoccupare. E in quel cartaceo è una cosa vera e differente, sta tranquilla, è un condominio, qui non ti vanno a attaccare niente. Hai capito? Il discorso è quello. L'unica è abitare lì, su dove c'è, come si chiama, la discoteca lì, nell'angolino, in modo che sia tutto aperto, se non è lì, e un po' più su salendo. Allora hai fatto 13. Coppa. Però non farò poi i baragoni a chi no. All'epoca no. Non era vazino, non c'è. A passarlo non c'è. Perché pigliava date di chi si goi perché la mi dai vasa, quindi. Già lo sai pure tu, Antone. Non ti credo, ce ne sono punti a Sassari che arrivi forte. Ma se sei al centro, tra cosa ti posso dire? Il campetto di calcetto che c'è lì salendo più su di me, e cosa ti posso dire, andando verso l'altra parte c'è un coso, c'è un terreno lì dove c'è lì, come si chiama, c'è cosa dell'acqua, c'è, adesso non mi ricordo come si chiama, ma abbiamo capito, lì è il punto più alto di Sassari, guarda. Se sali una volta lì da sopra, hai fatto 13. Ma scommetti che io quel coso lì, il suo grattacielo che venchi, quel palazzone alto c'è lì in via con la Malta. Io monto questa, amico, non la Malta, ma monto questa e rompo le palle a un bel di gente. Non lo so, questo non te lo so dire, ma ce ne sono punti a Sassari che sono molto alti, la verità. Sembrano bassi, ma sono alti. Cappa, guarda, io non mi posso lamentare, la verità, non li posso di nulla. Mi hanno detto, ma io non sono soddisfatto, poi, non lo so. Io questa antenna qua per me va bene. E io voglio che va bene, basta e avanza. Cappa, soprattutto questo è il modello vecchio, e va ancora meglio. Se ti metti davanti, va di lì, quelle, come si deve, a belle alte. Sì, al centro studio, sei tutto aperto, sì, alghero, Bonottoles, eccetera eccetera, Tanta Mola, la Dova di Soso, lì sei tutto aperto, sì. Il problema, sai cos'è? Che sono basso io, non è che non sia aperto, sono basso e quindi mi ruba parecchio segnale. Se ero stato in Chimala Tardioni dove è Gianni, allora sarebbe cambiato la musica. Non dirlo a me. Io quando ero nel produttore si è messo 6 metri di palo lì in campagna, la verità, uscivo forte in tutti i posti, uscivo veramente forte. Quando sono andato via a Calofelli, via con Vittorio Emanuele, ho pensato la rampa lì, usciva benissimo. Facevo di exit tutti i giorni, Allora addirittura con Genova, con l'antenna in gomma, figurati tu. È stato fuori dalla finestra. Ma era siccome molto alto contro Vittorio Emanuele, a confronto a qua. No, non avevo in zona alta io ero proprio all'inizio di Corso Vittorio Emanuele, dove c'è il primo bar. Meglio di qua, sicuro. Non lo so questo, non so dove sei tu. Chiappa. Sì, a te lo dico al telefono dove sono. E vabbè, ma comunque sia... Io già ci vado abbastanza bene. 2 metri di palo, i radiali scendevano giusti giusti quasi nelle tegole, figurati tu. Ehi, Antone, guarda che te l'ho mandata. E io ho capito. Ascoltalo, lo capisci dove abito. Capito, hai? Ho capito. Allora, aspetta un secondo che rientro subito. Antone, ci sei? Luca! Aspetta, tanto sto mandando un messaggio. Eia, ok. Se ci sei io chiudo, vai, va giù sonno, vai, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte anche a te. Sono Sarrendirocci, ciao ciao.